hanno fatto il paragone, su YouTube l'ho visto, con un alimentatore che sembra uguale fuori, ma dentro è pieno zeppo di componenti. Se si vedeva la differenza della circuitazione, capito? Noi abbiamo quelli più economici. D'altronde, se vuoi quello più buono ti costa un po' di più, a quei livelli tanto vale un alimentatore bello con gli strumenti, no, non quelli piatti. Se lo uso così non si abbassa la luce, capito? Se lo uso così non si abbassa, però da pochi watt, da 10 watt, lo guardo da almeno 20, 20 e 100, capito? Ma la modulazione è distortissima, sparatissima già adesso, non so cosa tu stia toccando. Marco, dagli un controllo, dai che vado a bere un attimo. Marco, riprendi. Non li ho di ecco, come cosa ti dico l'ecco, non c'è un ecco qua. Aspetta che ne ha attaccato l'apparecchio, lo faccio girare stasera, buonanotte. I miei apparati stanno facendo la muffa negli armadi, alla fine uso sempre solo questo. E l'effetto stanza, sì, era troppo amplificato. No, però non capisco perché Gianni non esca costante di radio. Sì, un passaggio esce bene, un passaggio esce un po'. Sì, macchina è una figata. Va bene, meno il 6009. Sai, nasce per i 10 metri. C'è un apparato che ha centinaia di canali, più watt dei 4 canonici. Ma io, vabbè, l'ho sempre portato. Casomai faccio finta di cadere dalle nuvole in caso di controlli. No, allora, il 6009 diciamo non nasce omologato, non è un apparato omologato. Nasce per i 10 metri, ha quindi 12 AM, 40 FM, 40 SB o giù di lì, no? Più o meno. Watt più watt meno. Poi c'ha centinaia di canali, quindi no, non è omologato. Non si potrebbe, ma e chi controlla più ormai? Non ci perdono nemmeno tempo a controllare le radio. Solo che se si trova lo usano quello lì in macchina, guai. Ma già, abbiamo sempre portato di tutto, non è mai successo niente, tanto meno adesso, che ci sono mosche bianche. Sì, ma non si possono usare in macchina, telefoni, baracchini, se ti trova usando l'apparecchio in macchina. Non perché usi quello, no, perché non si può usare in macchina. Ah, tu stai dicendo perché devi tenere le mani alla guida, al volante. Ah, quello è superabile, lo sai, no? Basta tenere il microfono in grembo, questo amplificato in macchina è un bijou. Te lo tieni poggiato sulle gambe, pigi e nessuno vede che c'hai roba avvicinata alla bocca, capito? L'importante è ricordati e non farsi sgamare, poi. Ma anche io normale lo tengo così sulle ginocchia, perché il mio è normale, quello dell'apparato lì, dell'amplificazione, lo sai, lo conosci, quello che usa in macchina. Quello lì io lo metto sul ginocchio. Però se ti vedono con una mano solo guidando, da lì sospettano. Sì, guarda, Salvini ha rotto le scatole, però con questi. Vabbè, lui, vabbè, contribuisce, diciamo, però io lo capisco già, perché vedo continuamente gente col telefono all'orecchio, che non ho capito come facciano a tenere il volante e cambiare le marce nelle rotatorie, o se lo mettono dalla parte opposta della testa il cellulare, non ho capito come guida, è come che con la sinistra usi il cambio e con la destra tieni il cellulare. Insomma, la gente è pericolosa la guida, capito? Poi non vedi la nuova Sardegna, continuamente incidenti, capottamenti, uno stamattina capottato sulla 131, quasi ogni giorno un investimento di persone c'era il mese scorso. Cioè la gente se ne frega, ecco perché poi però ci perdiamo tutti. Per chi sgarra tutti i giorni e continuamente, capito? Vai Marco. Cappa. Io per dire, guidando non rispondo mai al telefono se chiamano, una volta, poi avevo preso da Lidl qui viva voce che attacchi all'aletta parasole, è una batteria interna, è un viva voce Bluetooth. Praticamente poi ho impostato il cellulare in modo da rispondere automaticamente alle chiamate se sono col Bluetooth. Cioè mi telefonano, se c'è il Bluetooth collegato, quindi il viva voce, risponde automaticamente, io non devo toccare neanche un tasto, risponde direttamente in viva voce. quanti rischiano la patente, cioè rischiano anche mesi di sospensione o multe salatissime per un cellulare, io non lo capisco. Cioè, ormai ti ritirano dietro i viva voce, quelli che ti lasciano le orecchie libere, no? Perché adesso stanno facendo storie anche per gli auricolari, perché può parzialmente distrarre o coprire i rumori di fondo, tipo se arriva un'ambulanza, la stanno facendo troppo grande però, veramente. Cioè, secondo il codice, se mi viene un prurito al naso, all'orecchio insopportabile, non mi potrei nemmeno grattare il naso, grattare l'orecchio, cioè non devo tenere le mani incollate al volante o al cambio, così è, secondo loro. E non si deve fumare, perché se ti cade la cenere della sigaretta, come è successo a me, che mi contorco tutto. Se si cade la sigaretta, la cenere è calda, mamma mia. Quello è un po' l'onfio, ma anche ti cade la sigaretta di mano, ti finisce sui pantaloni. No, ma il vento a volte, come se finissi la peggio che stai fumando, ti fa uscire la cera, la calda, siamo con brucia. No, ma anche quello influisce già, influisce come? Un coso incandescente nell'occhio mi ha ancora acceso, peggio ancora, vabbè. Comunque, sì. Basta avere un po' d'attenzione, però stanno esagerando, cioè adesso anche con questa storia del bere, non so, il pretest, già ce n'è poca di roba, stanno incasinando, addirittura le macchine nuove dovranno essere dotate di questa specie di, come che si chiama? C'è una specie di etilometro incorporato nella macchina, che se la vuoi avviare devi soffiarci dentro e devi risultare 0.0. Che roba da fantascienza, sembrano quelle puntate di Black Mirror ormai. Che carità, dove stiamo andando a finire, boh. Che pretese amici, la vita ha fatto cagata e basta. Questa è la Static? Sì, questa è la Static, con Luis. Eia, la timbrica. Eia, e poi con questa storia della cannabis addirittura, cioè anche se tu sei perfettamente lucido, vabbè, non è il mio caso, ma anche se sei perfettamente lucido che hai fumato, che ne so, 5-10 giorni prima, se risulta comunque che ci sono tracce infinitesimali che non fanno niente, poi anche, hai visto come si pone Salvini, dice, non mi interessa se tu hai fumato la canna 10 giorni prima, io ti tolgo la patente, ma ascolta, lasciamo perdere, dai. Vabbè, io per quello non ho problemi perché non ne fumo, però c'è il problema perché sono diabetico e dice che anche quando ti fa l'insulina risulta come se ti fossi imbriagato. Sì, guarda, i farmaci possono influire, ma che ne so, io prima di uscire da casa mi lavo i denti, uso il colluttorio, no? Un po', per forza, dalla mucosa viene assorbito un po' d'alcol, no? Giro l'angolo, mi fanno l'etilometro, dietro l'angolo dice, ah, lei è ubriaco, ma cosa? Ma lasciamo perdere, va, vai Marco. Ah, io non saprei, io praticamente non bevo, non fumo, non Gianni nemmeno, a chi possiamo chiedere? Se, quello non lo so veramente, se si può tenere la sigaretta. Boh. Ciao Chris. Aspetta, è entrato Cristian che stava parlando assieme a Marco. Avanti Cristian, se puoi modulare, puoi sollevare un po' la modulazione? Sì. Avvicinati col microfono, se non capisco nulla. Normale. Adesso si sente bene come te ne avvicinare. Gianni, dai il genero più lungo, dai una scucciolata a quel PTT che è un po' scariche. Ci butto tutto quanto adesso, tutto l'apparecchio, l'alimentatore, tutto là. Sì, guarda, le scariche del PTT non le posso vedere, nemmeno io. Anche questo l'ha fatto me. Cioè, per non averlo usato, si era come un po' ossidato, ho dovuto usare il disossidante proprio sul PTT interno. E si è risolto tutto, dai. Vai Marco. È in baramobile. Ma il nome mi sfugge. Lo copi Marco? No, non lo copio, ma da QRM. Ah vabbè, perché si è in baramobile, ok. Ah no, dicevi della sigaretta, siccome noi siamo, vabbè, non fumiamo, no? Si può fumare alla guida o no? Io fumo tranquillamente, non devo fare con niente, pure. Ah, non hanno fatto osservazione, perché sai, può, come diceva Coso, un po' col finestrino aperto, un po' le cenere negli occhi, come se ti ingaggi la sigaretta tipo in zone basse, sai, uno può perdere un po' il controllo, che ne so io. Ma certi gli viene il panico, a seconda di dove cade, metti che sia in estate con i pantaloncini corti ti fisce sulla coscia, sulla pelle nuda, roba a sbandare, mi prendere e perdere il controllo della macchina. Che sadico, sì. Beh raga, è stato un piacere, io vorrei salutare su tutto quanto a sostare giù il cane che è tardi, dai. Ci sentiamo, buona serata a tutti. Va bene, adesso l'apparecchio saranno male, ancora il PTT Marco. No, adesso bene, adesso bene. Poi sai cos'è? Quel PTT è duro, bisogna essere un culturista per tenerlo premuto. Sì, è vero, ti fa male il dito qua, a fine di modulazione. Sì, comunque, boh, secondo me non vale i soldi, cioè, ti ricordi già, te l'ho spiegato, no? Se lo vantano tanto la static, però piccole magagne, così pittiti duro, poi per mettere la batteria devi aprire tutte le viti del mic, cioè, boh, vabbè, gli sportellini forse negli Stati Uniti non li hanno inventati ancora. Boh, e chi lo sa. Vabbè, comunque, dai, interessante che vada, questo qua è stato ripristinato al 100%, c'ho cavo nuovo, ho fatto tutti gli attacchi nuovi, bene, mi sono ambientato a farlo, Marco, l'ho fatta nuovo, l'unica cosa che c'è è praticamente quella vite che gira a vuoto, vabbè, però già va bene lo stesso. Sì, comunque come vedi già, anche il fatto della guaina del mic, quel microfono quanto ce l'avevo? Un anno, meno di un anno, quando ti ricordi, no, c'era quella spaccatura, sembrava fatta a taglierino, c'è proprio la guaina che è di quella gomma che si cristallizza e si spacca tipo fessurazione, cioè, ma quando mai mi devi far pagare il microfono 60 euro, un palmare schifoso e poi si rompe la guaina dopo un anno, vabbè, contenti loro. Purtroppo loro cercano sempre roba che costa poco, perché per guadagnarsi di più, capito, la pagano di meno e loro ci guadagnano di più e noi ce l'abbiamo sempre dietro. Allora, vi lascio che devo andare e devo controllare anche questo apparato qua, perché come lo tocchi tipo come se ci fosse una scarica, ci tocca come lo tocchi con le mani, non ti dà la scossa, però senti proprio il rumore di quando ti dà la scossa, capito? Sì, a me fa scarica l'RF gain a manetta, lo tocchi appena appena col dito e senti un po' di soffio, da. Vabbè, perfetti, gli apparati non possono essere, sono fatti in economia, poi i baracchini sono particolarmente... Ok, vabbè già, buona passeggiata col cane, già stacco anch'io e inizio a preparare qualcosa per la cena. Io rilancio a Cristian per i saluti a Gianni. Ciao, ciao Gianni, buon pomeriggio e buon pomeriggio a Cagliolino, dai. Marco, vai per i saluti. Allora, sono le 19:56, quasi 57, proprio adesso 19:57. Ti volevo dire, Marco, ma tu hai iniziato, come mai proprio quell'apparato là, quel modello in particolare? Gianco, per me, dai, una mala commissione. Aspetta, sta parlando. Sì, piaceva anche a me quando è uscito, e anche quell'altro di cui non ricordo il nome. Cristian, vieni avanti, che stava parlando Marco, è da Caniga lui, No, forse ha chiuso, forse è arrivato a casa. Va bene. No, prima ha detto di no, è in baramobile, quindi vabbè, un po' già per noi è... Vabbè, qua 6-7 di segnale, già va bene. Poi in FM migliora molto anche. Forse avevamo già fatto la prova. In FM senti meno QRM sotto. Ed anche più watt, dipende dall'apparato, dai. Sì, in FM il fruscio del ricevitore è molto forte, bisogna usare lo squelcio obbligatoriamente, un minimo, tanto da levare il fruscio di fondo. Va bene, Marco, io stacco, dai, mi dedico a cose casalinghe. Cristian, se sei ancora in radio, ti saluto e ci sentiamo alla prossima. E ya, se c'è Cristian ancora all'ascolto, Marco lo saluta. Va bene, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, buonasera, buonanotte. Ciao Mari. Ero sul 23 con te, stavo girando, vi ho sentito. Ciao Marco, ci sentiamo, da saluto da madre, a domani se coincide. Saluto anche Marco, sempre se mi sta ascoltando, la canica, Marino l'ottava. Ok, ciao Marco, ci sentiamo. Eia, ciao Marino, bello, bello pimpante. Sì, c'è stato un miglioramento rispetto a una volta che il segnale anni fa, anche mesi fa era più basso, quindi è migliorato tanto. Ok, ci sentiamo, dai, alla prossima, adesso è tardi, non fa. E tanti, non preoccupate, ero con te, sono vedete, Marco, 10 minuti, già lo so, un paio di cazzate, tanto per passare il tempo. Vi ho sentito poc'anzi, ma mi ha chiamato dottore e sono andato sulle 23 senza nessun problema. Ok, ciao Marco, la sentiamo domani se coincide. Ciao anche l'amico Marco di Carica, sempre se mi sta ascoltando, io lo ascolto un segnale di 5 qui a Ottava. Ok, ciao ciao anche per me, correti, dai. Sì sì, ha detto che ti copia bene a quanto ho capito. Beh, Marco conferma, ma ha già chiuso, va bene, ciao a tutti, ciao. Ciao Marco, ciao.